Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio vogliamo parlare di radicchio, in particolar modo del radicchio di Chioggia IGP. Il radicchio è uno dei prodotti, in generale, dei prodotti più diffusi nel Veneto, ne contiamo molti anche a marchio di tutela, per esempio quello di Treviso, quello di Verona. Però quello di Chioggia in questo momento si sta facendo molto conoscere perché c'è molto attivo il consorzio di tutela del radicchio di Chioggia, sta anche per partire un'iniziativa di cui fra poco diremo. Abbiamo oggi come ospite Giuseppe Boscolo Palo, il presidente appunto del consorzio di tutela del radicchio di Chioggia, a cui diamo il benvenuto. Sì, buongiorno. Ecco, intanto perché il radicchio di Chioggia è così importante e diverso da altri da meritare un marchio di denominazione controllata? Beh, è importante soprattutto per il fatto che è il più prodotto a livello globale e quindi nazionale, Veneto, e dell'area di produzione a indicazione geografica protetta, e quindi è anche il più consumato. Un'area che va dalla zona, non è solo la zona di Chioggia, mi pare. No, sono 10 comuni, 3 del veneziano, Chioggia, Cavarta, Recona, 2 del padovano, Codevigo e Corezzola, e 5 del rodigino, con Rosolina, Loreo, Taglio di Po, Portoviro e Ariano Polesine. Quindi dalla laguna sud di Venezia fino al delta del Po. Quindi un territorio che è sicuramente da valorizzare attraverso questo prodotto, che appunto ha meritato il riconoscimento europeo perché è un prodotto importante che ha la sua storia. L'hanno, come dire, costruito attraverso una selezione massale dal 1930 i produttori di sottomarina, di Chioggia quindi, e che andavano poi ad avere contatti con altri produttori che confluivano nei mercati di Venezia, che era ovviamente una città ricca e dove questi prodotti venivano conferiti e venduti. La vostra attività del consorzio è quello di tutelarlo, ma anche di farlo conoscere fuori dalla regione e magari anche all'estero. È conosciuto questo radicchio, cioè il radicchio veneto in generale e poi in particolare il vostro, è conosciuto al di fuori del territorio di queste province? Ma sicuramente sì, il radicchio di Chioggia IGP è conosciuto fuori dai confini dell'indicazione geografica protetta proprio perché è prodotto in tutto il mondo. Però quello prodotto in tutto il mondo, quello prodotto anche in Italia che non è certificato, è un radicchio tondo. È per questo che oggi il consorzio è così attivo nel promuoverlo e nel cercare di tutelarlo. Perché se ci sono milioni di quintali di prodotto, pochissimo ne va venduto a marchio e quindi c'è una grande contraffazione in atto. Cioè, contraffazione significa che viene prodotto il radicchio di Chioggia, con la semente di Chioggia, solo che viene prodotto in altre zone e non si può chiamare di Chioggia, però quello è la pianta, però viene diffuso come se fosse prodotto a Chioggia o nella zona tutela. Diciamo che anche quello prodotto nell'area a indicazione geografica protetta, che però non trova collocazione nell'adesione ai protocolli del CSQA, che è l'ente certificatore, anche quello non si può ovviamente chiamare di Chioggia. Invece noi ne troviamo tantissimo sui banchi della frutta e verdura, no? Rionali, sui menù dei ristoranti, come prodotto per fare prodotti trasformati dalle grappe alle birre alle marmellate con la denominazione Chioggia vicina al radicchio, e questa è semplicemente un aspetto illegale, è una frode che viene fatta nei confronti del consumatore, e quindi oggi diciamo, e questa è l'azione che stiamo facendo come consorzio, accettiamo che ci sia questo processo che si ignora, no? Che un prodotto che è riconosciuto a livello comunitario abbia una tutela particolare. E quindi noi l'azione che stiamo facendo è quella di formare, di informare e quindi di promuovere. alla fine di un percorso che durerà alcuni mesi, e poi faremo la tutela vera e propria, nel senso che abbiamo tante segnalazioni di frode e noi puntualmente andremo a denunciare questo. Ecco, perché il prodotto che non è a marchio non è solo una questione di qualità, è anche questione di magari di garanzia, cioè c'è una certificazione, c'è un disciplinare che viene seguito e controllato, quindi c'è qualche garanzia in più per il consumatore. Sì, cioè un ente terzo garantisce l'effettiva origine del prodotto, quindi l'applicazione di un disciplinare che consente attraverso il quaderno di campagna, attraverso delle procedure che comunque sono intrinseche nel disciplinare, di garantire il consumatore. Quindi il consumatore dovrebbe stare un po' attento nel momento che acquista e non accontentarsi di una scritta radicchio di Chioggia, ma guardare se c'è un bollino, che è quello comunitario, che è blu, che dà l'indicazione geografica protetta. Bene, ci fermiamo un attimo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Affondo negli ostacoli, 100 passi tra di noi, nutro la menzogna sull'impossibilità di tornare a respirare ancora. Non sarà il rimorso trascinandosi il peso di un errore a decidere per me. Se improvviso al piano una canzone, ricomincio da me. Qui non servono solo parole d'amore, lo faccio per te. All'alba di ogni partenza c'è sempre un finale, un finale cos'è? È solo un dettaglio in un cielo stellato di te. Improvviso un viaggio con la mente nel paradiso delle idee. Alcune son rimaste, altre si consumano a fuoco lento in prescrizione. Ricomincio da me. Qui non servono solo parole d'amore, lo faccio per te. All'alba di ogni partenza c'è sempre un finale. Un finale cos'è? È solo un dettaglio in un cielo stellato di te. Io che ero parole di vetro, la sono canzone per te. Io che restavo in disparte a guardare la vita scivolare con me. E non capivo il perché. Ricomincio da me, perché l'unico salto da fare per te non è l'ultimo, l'ultimo, non è l'ultimo, non è l'ultimo, non è l'ultimo, l'ultimo. Torniamo in linea con la rubrica Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del radicchio di Chioggia, ne stiamo parlando con Giuseppe Bosco Lopalo, presidente del consorzio di tutela appunto del radicchio di Chioggia. Abbiamo visto che siete anche molto attivi, per esempio siete presenti adesso anche, avete fatto degli accordi con la grande distribuzione per essere presenti proprio come radicchio a marchio. Sì, noi intanto abbiamo incominciato a esportare nei paesi scandinavi. Un nostro socio confezionatore ha avviato questo processo commerciale con quei paesi, così come altri in Europa, dove appunto c'è la tutela, come dicevamo prima. Noi abbiamo messo in piedi però anche un progetto di valorizzazione del prodotto nel nostro territorio dei 10 comuni. Lo abbiamo chiamato il Principe Rosso, è un progetto con il contributo della Camera di Commercio di Venezia, della provincia di Venezia e anche dei comuni dell'area, poi col sostegno anche di qualche privato, perché è un processo che comunque dovrebbe far vendere il prodotto, ma soprattutto far vendere, in senso buono ovviamente, il territorio, perché sempre più un prodotto a marchio che si lega sul territorio consente poi di avviare dei processi di fruizione turistica, enogastronomica, paesaggistica, ambientalistica, che permette appunto una conoscenza, no, di, da parte di flussi turistici sul territorio. E cosa abbiamo messo in piedi? Bene, noi consideriamo i ristoranti, gli agriturismi, qui soggetti che possono essere veramente degli ambasciatori della, dei prodotti di qualità. Ecco, in questo entriamo nell'iniziativa che sta partendo in questi giorni, no? Proprio sì, questo concorso enogastronomico. Sì, dove una giuria composta da giornalisti del settore, no? Agricolo e enogastronomico andranno a mangiare in incognito presso i ristoranti agriturismi che hanno aderito all'iniziativa, che sono una quindicina, sparsi nei 10 comuni dell'area, ma anche al di fuori dei 10 comuni. Potranno gustare delle pietanze con il radicchio di Chioggia IGP, si emetterà un giudizio finale e questo giudizio consentirà al vincitore di essere nominato ambasciatore. Cosa serve tutto questo? Bene, si va a costruire a monte la filiera, perché un ristorante obbligatoriamente deve avere il radicchio di Chioggia IGP, però il grossista può ovviamente nel dare il prodotto al ristorante servire anche altri alberghi, ristoranti, clienti normali, consumatori normali. Quindi ci dovrebbe essere una diffusione nel territorio e quindi una visibilità del marchio, che oggi non c'è. Parlando di visibilità del marchio, dove si possono trovare informazioni per chi volesse saperne di più? C'è un sito internet? Sì, c'è un sito internet che verrà, come dire, adesso adeguato anche a questa, a questo tipo di iniziativa. Abbiamo una pagina Facebook. La scorsa settimana, tra l'altro, volevo ricordare anche lo chef Vissani è venuto a Chioggia, dove sarà presente un momento, una finestra che parlerà del nostro prodotto attraverso la trasmissione La Vita in Diretta, che avrà luogo nelle prossime settimane. Quindi c'è tutta un'attività, diciamo un fermento per far conoscere questo prodotto, però per far mangiare veramente il prodotto radicchio di Chioggia IGP. Grazie. Grazie a voi, grazie molte. Andiamo a chiudere questa trasmissione con alcune notizie. Agli alberi monumentali, antichi e di interesse paesaggistico è dedicato un corso di aggiornamento proposto da Veneto Agricoltura e in programma nella sede della Corte Benedettina di Legnaro. Il corso vuole diffondere buone pratiche di gestione e tutela del verde. Gli esperti approfondiranno tecniche di arboricoltura, misure di prevenzione, ecologia, cura strutturale e fitosanitaria. Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 35 partecipanti. Le informazioni si possono trovare sul sito www.venetoagricoltura.it. Oltre 2.700 cavalli di 60 razze da tutto il mondo e 650 aziende provenienti da oltre 25 paesi, quasi 200 iniziative tra gare sportive, esibizioni e convegni, sono i numeri della 116esima edizione di Fiera Cavalli, in programma a Verona la prossima settimana e precisamente dal 6 al 9 di novembre. Novità del 2014 è un padiglione turistico dal titolo Valigia in Sella, dedicato alle migliori proposte ippoturistiche nazionali e internazionali. Infatti è un settore, quello del turismo equestre, che vanta 120.000 appassionati e un indotto in Europa che supera i 900 milioni di euro. Questo quindi a Verona la prossima settimana a Fiera Cavalli. Il bacino di laminazione di Caldogno Villaverla a nord di Vicenza contro le piene del Bacchiglione sarà terminato entro la fine del 2015. È quanto hanno affermato le autorità regionali al termine di una visita svoltasi la scorsa settimana presenti i sindaci dei comuni interessati. Il primo bacino dei due previsti appunto a Villaverla sarà già operativo dall'agosto del prossimo anno. A breve partiranno però anche i lavori del bacino di Trissino Caldogno, progettato per trattenere in caso di piena circa 3,8 milioni di metri cubi d'acqua dal torrente Timonchio. Sono prossimi all'affidamento anche i lavori per i bacini di Colombaretta, Muson e San Lorenzo.